Ad alta voce, Elio De Capitani legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Il ritorno di Amaranta Ursula determinò un cambiamento radicale nella vita di Aureliano. Dopo la morte di José Arcadio era diventato un cliente assiduo della libreria del Savio Catalano. Inoltre, la libertà della quale allora godeva e il tempo di cui disponeva gli risvegliarono una certa curiosità per il villaggio, che imparò a conoscere senza paura. Percorse le strade polverose e solitarie, esaminando con un interesse più scientifico che umano l'interno delle case in rovina, le reticelle metalliche delle finestre rotte a causa della ruggine e degli uccelli moribondi e gli abitanti abbattuti dai ricordi. Cercò di ricostruire con la fantasia il diroccato splendore dell'antica città della compagnia bananiera, la cui piscina secca era piena fino all'orlo di scarpe di uomo e di scarpette di donna imputridite, e nelle cui case sconvolte dalla zizzania trovò lo scheletro di un cane tedesco ancora legato a un anello con una catena di ferro e un telefono che suonava finché lui ne sollevò il ricevitore. Sentì quello che una donna angosciata e remota domandava in inglese e le rispose che sì, che lo sciopero era terminato, che i 3.000 morti erano stati gettati in mare e che la compagnia bananiera se n'era andata e che Macondo era finalmente in pace da molti anni. Quelle scorribande lo condussero nel prostrato rione di tolleranza dove in altri tempi si bruciavano fasci di banconote per animare la sarabanda e che ora era un labirinto di strade più travagliate e miserabili delle altre, con qualche lampada rossa ancora accesa e con deserte sale da ballo adornate con brandelli di ghirlande dove le macilente grasse vedove di nessuno, le bisnonne francesi e le matriarche babiloniche continuavano ad aspettare vicino ai fonografi. Aureliano non trovò nessuno che si ricordasse della sua famiglia, nemmeno del colonnello Aureliano Buendía, tranne il più vecchio dei negri antigliani, un vegliardo, la cui testa ovattata gli dava l'aspetto di un negativo di fotografia, che continuava a cantare sul portico della casa i salmi lugubri del crepuscolo. Aureliano chiacchierava con lui nell'intricato gergo che aveva imparato in poche settimane e certe volte divideva con lui il brodo di teste di gallo che preparava la bisnipote, una negra grande, con ossa solide, natiche da giumenta e tette come meloni vivi e una testa rotonda, perfetta, corazzata da un duro casco di capelli di filo di ferro che sembrava la cuffia di ferro di un guerriero medievale. Si chiamava Nigromanta. In quell'epoca Aureliano viveva vendendo posate, palmatorie ed altre cianfrusaglie di casa. Quando si trovava senza un centesimo, ciò che succedeva quasi sempre, riusciva a farsi regalare nelle bettole del mercato le teste di gallo destinate alla spazzatura e le portava a Nigromanta perché gli facesse le sue zuppe arricchite con portulaca e profumate di mentastro. Quando morì il bisnonno, Aureliano smise di frequentare la casa, ma si trovava con Nigromanta che attirava coi suoi fischi d'animale selvatico gli scarsi nottambuli sotto gli oscuri mandorli della piazza. Molte volte le faceva compagnia, parlando in quel suo strano idioma delle minestre di teste di gallo e delle altre squisitezze della miseria. E avrebbe continuato a stare con lei se Nigromanta non gli avesse fatto capire che la sua presenza allontanava la clientela. Anche se certe volte ne provò la tentazione, e anche se alla stessa Nigromanta sarebbe sembrato apice naturale della loro comune nostalgia, non andava a letto con lei. Così Aureliano Era ancora vergine quando Amaranta Ursula tornò a Macondo e gli diede un abbraccio fraterno che lo lasciò senza fiato. Ogni volta che la vedeva, e più ancora quando lei gli insegnava i balli alla moda, lui sentiva nelle ossa la stessa debolezza spugnosa che aveva turbato il suo trisnonno quando Pilar Ternera nel granaio era ricorsa a quel pretesto delle carte. Cercando di soffocare il tormento, si immerse più profondamente nelle pergamene ed eluse le lusinghe innocenti di quella zia che corrompeva le sue notti con effluvi di tribolazione, ma con più la evitava, con più aspettava la sua risata rauca, i suoi urli di gatta felice, i suoi canti di gratitudine, quando agonizzava d'amore in qualsiasi ora e nei luoghi più impensati della casa. Una notte, a 10 metri dal suo letto, sul banco di oreficeria, gli sposi dal ventre dissennato sfondarono la vetrina e finirono per amarsi in una pozza di acido muriatico. Aureliano non solo non riuscì a dormire un solo minuto, ma passò il giorno dopo stremato dalla febbre e singhiozzando di rabbia. Gli sembrò eterno l'arrivo della prima sera in cui aspettò Nigromanta nell'oscurità dei mandorli, trafitto dagli aghi di ghiaccio dell'incertezza e stringendo nel pugno il peso 50 che aveva chiesto ad Amaranta Ursula, non tanto perché ne avesse bisogno quanto per renderla complice, svilita e prostituita in qualche modo grazie alla sua avventura. Nigromanta lo portò nella sua stanza illuminata con una finzione di paralume, nella sua branda dal lenzuolo incrostato di maliamori e nel suo corpo di cagna selvatica impietrita, disumanata, che si era preparata a sbrigarlo come se fosse un bambino spaventato, e si trovò improvvisamente con un uomo il cui tremendo potere richiese alle sue viscere un moto di riassestamento sismico. Divennero amanti. Aureliano passava la mattina a decifrare pergamene e nell'ora della siesta se ne andava nella stanza soporifera dove Nigromanta lo aspettava per insegnargli a fare dapprima come i lombrichi, poi come le lumache e da ultimo come i granchi, finché era costretta a lasciarlo per tendere agguati ad amori sperduti. Trascorsero parecchie settimane prima che Aureliano scoprisse che Nigromanta aveva intorno alla vita un cordoncino che sembrava fatto con una corda di violoncello, ma che era duro come l'acciaio e non aveva estremità perché era nato e cresciuto con lei. Quasi sempre, tra amore e amore, mangiavano nudi a letto, nel calore allucinante sotto le stelle diurne che la ruggine andava facendo spuntare nel tetto di zinco. Era la prima volta che Nigromanta aveva un uomo fisso, un rocchettone, come lei stessa diceva scoppiando a ridere, e cominciava persino a farsi delle illusioni di cuore quando Aureliano le confessò la sua passione repressa per Amaranta Ursula, che non era riuscito a rimediare con la sostituzione, ma che invece gli andava torcendo sempre di più le viscere a mano che l'esperienza allargava l'orizzonte dell'amore. Allora Nigromanta continuò a riceverlo con lo stesso calore di sempre, ma si fece pagare i servizi con tanto rigore che quando Aureliano non aveva i soldi li aggiungeva al conto, che non segnava con numeri ma con lineette che andava marcando con l'unghia del pollice dietro la porta. Verso sera, mentre lei restava a bordeggiare nelle ombre della piazza, Aureliano passava per il portico come un estraneo, salutando appena Amaranta Ursula e Gaston, che di solito cenavano a quell'ora, e tornava a rinchiudersi nella stanza, senza poter né leggere né scrivere né pensare nemmeno, per l'ansia che gli provocavano le risate, i sussurri, i trastulli preliminari e poi le esplosioni di felicità agonica che colmavano le notti della casa. Quella era la sua vita 2 anni prima che Gaston cominciasse ad aspettare l'aeroplano. e continuava ad essere uguale il pomeriggio in cui andò nella libreria del Savio Catalano e trovò quattro ragazzi ciarlieri infervorati in una discussione sui metodi per uccidere gli scarafaggi nel Medioevo. Il vecchio libraio, conoscendo la passione di Aureliano per libri che aveva letto solo Beda il Venerabile, lo sollecitò, con una certa malignità paterna, a far da arbitro nella controversia e lui, senza neppure prender fiato, spiegò che lo scarafaggio, l'insetto alato più antico sulla terra, era già la vittima favorita delle pantofole nell'Antico Testamento, ma che, in quanto a specie, era definitivamente refrattaria a qualsiasi metodo di sterminio, dalle fette di pomodoro con borace fino alla farina con lo zucchero, perché le sue 1603 varietà avevano resistito alla più remota, spietata e tenace persecuzione che l'uomo aveva scatenato fin dalle sue origini contro essere vivente alcuno, incluso lo stesso uomo, fino all'estremo che, così come si attribuiva al genere umano un istinto di riproduzione, gliene si doveva attribuire un altro più definitivo e incalzante, che era l'istinto di uccidere scarafaggi, e che se questi erano riusciti a sfuggire alla ferocia umana era perché si erano rifugiati nelle tenebre, dove si erano resi invulnerabili grazie al timore congenito dell'uomo per il buio, ma in cambio si erano fatti suscettibili allo splendore del mezzogiorno, di modo che già nel Medioevo, nel presente per secoli dei secoli, l'unico modo efficace per uccidere scarafaggi era l'abbagliamento solare. Quel fatalismo enciclopedico fu il principio di una grande amicizia. Aureliano continuò a trovarsi tutti i pomeriggi con quei quattro cavillatori che si chiamavano Alvaro, Germán, Alfonso e Gabriel. I primi e gli ultimi amici che ebbe nella vita. Per un uomo come lui, incastellato nella realtà scritta, quelle riunioni tormentose che cominciavano nella libreria alle 6 di sera e finivano nei bordelli alla spuntare del giorno, furono una rivelazione. Non gli era mai venuto in mente fino ad allora di pensare alla letteratura come al miglior giocattolo che si fosse inventato per burlarsi della gente, come gli dimostrò Alvaro in una notte di bagordi. Doveva trascorrere ancora qualche tempo prima che Aureliano si rendesse conto che tanta arbitrarietà aveva origine nell'esempio del Savio Catalano, per il quale la saggezza non valeva la pena se non era possibile servirsene per inventare un nuovo modo di cuocere i ceci. Il pomeriggio in cui Aureliano tenne cattedra sugli scarafaggi, la discussione terminò nella casa delle ragazzine che facevano all'amore per fame, un bordello da finzione, nei sobborghi di Macondo. La proprietaria era una mammana sorridente, afflitta dalla mania di aprire e chiudere le porte. Il suo eterno sorriso sembrava provocato dalla credulità dei clienti, che ammettevano come qualcosa di vero una istituzione che non esisteva se non nella fantasia, perché lì perfino le cose tangibili erano irreali. I mobili che si schiantavano quando ci si sedeva, il fonografo sventrato nel cui interno c'era una gallina a covare, il giardino di fiori di carta, gli almanacchi di anni anteriori all'arrivo della compagnia bananiera, i quadri con litografie ritagliate da riviste che non si erano mai pubblicate. Persino le puttanine timide che accorrevano dai dintorni quando la proprietaria le avvisava che c'erano clienti erano pura invenzione. Comparivano senza salutare, coi vestitini a fiori di quando avevano 5 anni meno, e se li toglievano con la stessa innocenza con la quale se li erano messi, e nel parossismo dell'amore esclamavano spaventate: «Che disastro, guarda come sta screpolandosi quel soffitto!» E non appena ricevevano il loro peso 50 centavos, se lo spendevano in pane, in un pezzo di formaggio, che vendeva loro la proprietaria, più ridente che mai, perché soltanto lei sapeva che nemmeno quel cibo era vero. Aureliano, il cui mondo di allora cominciava nelle pergamene dei Melchiades e terminava nel letto di Nigromanta, trovò nel bordellino immaginario una cura radicale per la timidezza. Sulle prime non riusciva a combinare nulla, in certe stanze dove la padrona entrava nei momenti migliori dell'amore e faceva ogni sorta di commenti sulle avvenenze intime dei protagonisti, ma col tempo riuscì a familiarizzarsi così tanto con quei contrattempi del mondo che in una sera più squilibrata delle altre si denudò nel salottino di attesa e percorse la casa portando in equilibrio una bottiglia di birra sulla sua mascolinità inconcepibile. Fu lui che mise di moda le stravaganze di cui la proprietaria si compiaceva col suo sorriso eterno, senza protestare, senza credervi, proprio come quando Germain cercò di incendiare la casa per dimostrare che non esisteva, o come quando Alfonso storse il collo al pappagallo e lo buttò nella pentola dove cominciava a bollire lo stufato di gallina. Anche se Aureliano si sentiva vincolato ai quattro amici da uno stesso affetto e da una stessa solidarietà, fino al punto che pensava a loro come se fossero uno solo, era più vicino a Gabriele che agli altri. Il vincolo nacque nella sera in cui si mise a parlare casualmente del colonnello Aureliano Buendia e Gabriele fu l'unico a non credere che volesse burlarsi del prossimo. Persino la padrona, che non usava intervenire nelle conversazioni, discusse con una rabbiosa passione di comare che il colonnello Aureliano Buendia, del quale in effetti aveva sentito parlare qualche volta, era un personaggio inventato dal governo come un pretesto per uccidere liberali. Gabriele invece non metteva in dubbio la realtà del colonnello Aureliano Buendia, che era stato compagno d'armi e amico inseparabile di suo bisnonno, il colonnello Erineldo Marquez. Quelle velleità della memoria erano ancora più critiche quando si parlava della carneficina dei lavoratori. Ogni volta che Aureliano toccava quel punto, non soltanto la proprietaria, ma anche certe persone più anziane di lei ripudiavano la panzana dei lavoratori assediati nella stazione e del treno di 200 vagoni carichi di morti, e si ostinavano persino a sostenere quello che, dopo tutto, era stato stabilito in rapporti giudiziari e sui testi della scuola elementare, che la compagnia bananiera non era mai esistita. Di modo che Aureliano e Gabriele erano vincolati da una specie di complicità, basata su fatti reali ai quali nessuno credeva, e che avevano influenzato la loro vita fino al punto che tutti e due si trovavano alla deriva, nella risacca di un mondo finito, del quale restava solo la nostalgia. Gabriele dormiva dove gli capitava. Aureliano lo ospitò parecchie volte nel laboratorio di oreficeria, ma passava le notti in bianco, turbato dal traffico dei morti che andavano e venivano fino allo spuntare del giorno nelle stanze. Più tardi lo affidò a Nigromanta, che lo portava nella sua stanzetta bazzicata quando era libera e gli segnava i conti con lineette verticali dietro la porta, nei pochi spazi disponibili lasciati dai debiti di Aureliano. Nonostante la sua vita disordinata, tutto il gruppo cercava di fare qualcosa di durevole su istanza del savio catalano. Era stato lui, con la sua esperienza di vecchio professore di lettere classiche e col suo deposito di libri rari, ad averli messi in condizione di trascorrere un'intera notte alla ricerca della 37ª situazione drammatica, in un villaggio dove ormai nessuno aveva più né l'interesse né la possibilità di andare oltre le scuole elementari. Affascinato dalla scoperta dell'amicizia, stordito dagli incantesimi di un mondo che gli era stato vietato dalla meschinità di Fernanda, Aureliano abbandonò l'indagine delle pergamene proprio quando cominciava a scoprire che si trattava di predizioni in versi cifrati. Ma la nuova scoperta che il tempo bastava per far tutto, senza che fosse necessario rinunciare ai bordelli, gli diede la forza di tornare nella stanza di Melchiades, deciso a non venir meno alla sua intenzione di scoprire le ultime chiavi. Questo successe nei giorni in cui Gaston cominciava ad aspettare l'aeroplano e Amaranta Ursula si sentiva così sola che una mattina comparve nella sua stanza. «Salve, antropofago», gli disse. «Di nuovo nella tana?» Era irresistibile. Col suo vestito inventato e una delle lunghe collane di vertebre di agone che fabbricava lei stessa, aveva rinunciato al guinzaglio di seta, convinta della fedeltà del marito, e per la prima volta dal suo ritorno sembrava disporre di un momento di ozio. Aureliano non avrebbe avuto bisogno di vederla per sapere che era arrivata. Lei si appoggiò coi gomiti al tavolo di lavoro, così inerme e così vicina che Aureliano percepì il profondo rumore delle sue ossa e si interessò alle pergamene. Cercando di vincere il turbamento, lui recuperò la voce che gli sfuggiva, la vita che lo lasciava, la memoria che si trasformava in un polipo pietrificato, e le parlò del destino levitico del sanscrito, della possibilità scientifica di vedere il futuro diafanizzato nel tempo come si vede controluce lo scritto nel rovescio di un foglio, della necessità di cifrare le previsioni affinché non si autoannientassero, e delle centurie di Nostradamus e della distruzione della Cantabria annunciata da Sant'Emiliano. Improvvisamente, senza interrompere il discorso, spinto da un impulso che dormiva in lui fin dalle sue origini, Aureliano mise una mano su quella di lei, credendo che quella decisione finale avrebbe posto fine all'angoscia. Tuttavia lei gli afferrò l'indice con l'affettuosa innocenza con la quale lo aveva fatto tante volte durante l'infanzia e lo tenne stretto mentre lui continuava a rispondere alle sue domande. Rimasero così, vincolati da un indice di ghiaccio che non trasmetteva nulla in nessun senso, finché lei si svegliò dal suo sogno momentaneo e si diede una manata sulla fronte. «Le formiche!» esclamò. E allora si dimenticò dei manoscritti, raggiunse la porta con un passo di ballo e da lì mandò ad Aureliano con la punta delle dita lo stesso bacio col quale aveva dato addio a suo padre il pomeriggio in cui l'avevano mandata a Bruxelles. «Dopo mi spieghi», disse. «Mi ero dimenticata che oggi devo mettere la calce nei buchi delle formiche».